Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Dumping, zip up my jacket, put my phone in my pocket. Keep my mind open and trying not to lock it. I make up plans, Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. E questa è la puntata numero 453, nella quale parleremo di caccia e lo faremo dal punto di vista delle vittime umane, delle vittime animali, dei cacciatori, dei politici e delle associazioni animaliste. Ma ci sarà spazio anche per una ricetta cruelty free e per una favola e anche per un pizzico di altre notizie. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a Nathan Labolani, il ragazzo di 19 anni ucciso domenica 30 settembre da un colpo di fucile all'addome, sparato da un cacciatore 29enne di Ventimiglia, adesso indagato per omicidio colposo. La morte di Nathan è arrivata dopo 2 ore e mezza di agonia e gli ha comunque lasciato il tempo di parlare al telefono con il padre per dirgli: papà, ti prego, aiutami, mi hanno sparato alla pancia, sto male. Si sta indagando per capire se il ragazzo fosse semplicemente a passeggio nel bosco o se partecipasse alla battuta di caccia al cinghiale. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane, pur non essendo in possesso di un porto d'armi, non fosse un escursionista, bensì avesse con sé un fucile da caccia, un calibro 12 con il numero di matricola a braso. I carabinieri stanno indagando. È grande la commozione sui social network per la morte di Nathan. Leggiamo un messaggio: ciao Nathan, non potrai più fare le foto da modello, farti muscoli facendo il muratore, dormire davanti al camino con il tuo gatto o andare a spasso nei boschi con il tuo cane. Non potrai più fare niente perché sei morto stamattina. Un colpo di fucile all'addome sparato da un cacciatore che voleva tornare a casa per pranzo con un cinghiale morto e invece ha ucciso un ragazzino. Dopo la morte di Nathan, il WWF ha chiesto alla regione Liguria di sospendere la stagione venatoria in segno di lutto. Michela Vittoria Brambilla, che presiede il movimento animalista, ha dichiarato che l'Italia, essendo un paese fortemente antropizzato, non ha posto per la caccia. Federcaccia ha raccomandato per l'ennesima volta ai cacciatori la massima attenzione e prudenza. Il presidente di Federcaccia è stato anche ospite di una trasmissione radiofonica in una rete nazionale dove ha affermato che bisognerebbe fare qualcosa per diminuire i morti per caccia. Avete capito bene, non ha detto azzerare, ha detto diminuire. Poi ha anche tentato di spiegare qual è la soddisfazione che si prova a premere il grilletto e ammazzare un animale. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha precisato che la caccia non è una sua delega. È il ministro all'agricoltura leghista Gianmarco Centinaio che ha la delega all'attività venatoria. Tuttavia, Costa ha lanciato un appello alle regioni chiedendo loro che modifichino fin da subito il calendario venatorio, bloccando almeno le battute di caccia al cinghiale domenicali, che sono le più pericolose e a rischio incidenti perché i boschi e i monti sono popolati di escursionisti. Chi va a funghi, chi va a castagne, chi vuole semplicemente godersi la natura senza correre il rischio di morire. La questione caccia è controversa anche all'interno del movimento anticaccia. Il dilemma è annoso: accettare graduali conquiste in una prospettiva di abolizione futura o chiedere un'abolizione tout court senza fare i conti con le circostanze concrete e reali. Animalisti che chiedono una caccia part-time, non vi sembra che suoni un po' male? Chiede Francesca. Fa da contraltare Lorenzo, che invece scrive: io sarei favorevole a darsi degli obiettivi concreti. Oggi forse sarebbe possibile ottenere il divieto di caccia nel weekend con l'appoggio di molti soggetti e un generale consenso. Per i cacciatori sarebbe una botta tremenda. Forse si prenderebbe lo slancio per andare poi oltre e intanto si sarebbe eliminato il 40% delle giornate di caccia. Aggiungiamo che in termini di animali uccisi la percentuale, eliminando le domeniche, è assai superiore al 40%. Rispetto a queste due posizioni, ciascuna persona in ascolto potrà farsi una propria opinione. A Serle, in provincia di Brescia, dove dal 19 luglio scorso si sta cercando una bambina affetta da autismo scomparsa nel bosco, nonostante le ordinanze di divieto di caccia in quell'area e le molte segnalazioni, i volontari impegnati nelle ricerche sono stati colpiti da pallini sparati da qualche cacciatore, in quanto probabilmente scambiati per prede. Anche il drone dei vigili del fuoco, utilizzato per perlustrare la zona dall'alto, è stato colpito e danneggiato. Beh, ci sembra preoccupante che in giro ci siano personaggi armati che sparano a qualunque cosa si muova. Sulla morte di Nathan Labolani, il ragazzo di 19 anni ucciso domenica 30 settembre da un colpo di fucile all'addome sparato da un cacciatore, e sugli scenari che si prospettano da un punto di vista politico e associazionistico, abbiamo intervistato il presidente dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione, Gianluca Felicetti. La caccia, oltre a mietere milioni di vittime animali ogni anno, è pericolosa e uccide, ferisce ogni anno decine e decine di esseri umani, e quindi se proprio non si vuole intervenire per tutelare gli animali, lo si faccia come necessario intervento di sicurezza per tutti coloro che da settembre a gennaio, in particolare almeno il sabato o la domenica, vogliono fare una passeggiata nei boschi, vogliono andare a cercare funghi, vogliono fare un giro in bicicletta, vogliono fare un giro con i propri figli. La caccia è violenza, e nello specifico, peraltro, ancora ad aggravare la situazione, c'è il fatto che in Liguria la caccia al cinghiale si apre in genere il 1° ottobre, anche quest'anno doveva essere così, ma la giunta regionale ha anticipato di 15 giorni l'apertura di questo tipo di caccia, in maniera per noi illegittima, tanto che siamo ricorsi al TAR insieme ad altre associazioni animaliste ambientaliste. Il TAR purtroppo non ha reso pubblico la sua pronuncia, ancora oggi scandalosamente non l'ha fatto, e quindi se la caccia fosse stata anticipata, peraltro illegittimamente, dal presidente della Liguria, Toti, quel ragazzo sarebbe ancora vivo. Il movimento animalista che posizione ha sull'ipotesi di chiudere la caccia nel fine settimana? È una prospettiva di impegno che intende assumersi o la linea abolizionista in qualche modo impedisce di difendere questa posizione? No, non sono incompatibili. Noi aspettiamo con ansia la riforma dell'istituto referendario preannunciata da questo governo affinché venga abolito l'antidemocratico quorum che non è previsto per le elezioni ma solo per le consultazioni popolari e fissato giustamente al 50% più uno degli aventi diritto al voto dai padri costituenti in un momento storico nel quale votava la quasi totalità degli italiani. Quindi in attesa di quello che è l'ostacolo con la O maiuscola a qualsiasi tipo di espressione democratica referendaria, sperando che questo impegno venga effettivamente realizzato, in particolare dalla componente 5 Stelle del governo, per chiudere la caccia almeno la domenica sarebbe un passo in un paese normale che un governo avrebbe già preso da tanto tempo, non solo quello attuale ma anche da quelli precedenti. Stiamo valutando, spero che anche con le altre associazioni, tanto più dopo la recentissima vittoria nell'aver bloccato la caccia in deroga in Lombardia, in una delle roccaforti, in una delle regioni roccaforte del potere venatorio, su proposta di Lega Forza Italia, dove anche il PD si stava unendo in aula a votare queste deroghe legittime per la caccia a fringuelli e peppole per l'uso dei cani vivi. Ecco, siamo riusciti a far muovere, diciamo, un fronte molto ampio che ha portato a salvare con pochi minuti di aula in consiglio regionale circa 500.000 di uccelli che non saranno usciti in Lombardia nelle prossime settimane. Quindi spero che ci sia la voglia e la forza anche per potersi concentrare su questo risultato. Il pronunciamento del ministro dell'Ambiente Costa non basta. Costa ha detto che sono le regioni che devono decidere. A nostro avviso questo impegno, sapendo che i presidenti delle regioni, anche le meno filovenatorie, non lo prenderanno mai, deve esserci un'iniziativa del governo, quindi deve essere il suo collega di governo Salvini, come ministro dell'Interno, che tanto si preoccupa della sicurezza di noi cittadini. Questo è davvero un caso di concreta sicurezza, quindi chiuda il ministro dell'Interno, chiuda, ne ha la facoltà, lo può fare in 5 minuti d'orologio, la caccia, per motivi di sicurezza e a tutela dell'incolumità pubblica. Sappiamo però che il ministro Salvini non lo farà mai. Volevi solo vivere e invece eri un bersaglio mobile, qualcosa da uccidere per sport. Non tornare più, non tornare più, resta dove sei. Cielo senza ostacoli, né blocchi di cemento, né semafori. Non avevi gabbie intorno a te, ma eri raggiungibile dal piombo calibrato di un proiettile. Uno sparo e sei caduto giù. Non tornare. Pensare a noi per l'eternità, resta dove sei, resta dove sei. 58 migranti e un cane sono stati soccorsi in mare dalla nave MV Aquarius nelle acque territoriali della Libia e sono stati accolti da Malta dopo una lunghissima trattativa. La nave Aquarius aveva inizialmente richiesto lo sbarco dei suoi passeggeri in Italia, ma gli era stato negato l'ingresso. I 58 migranti e un cane, quindi i 59 migranti, saranno ridistribuiti tra 4 stati membri dell'Unione Europea dopo un accordo che è stato negoziato tra il primo ministro maltese Muscat e il presidente francese Macron. Muscat ha anche parlato del salvataggio del cane. Perché il nostro compito è salvare tutte le vite, questa è stata la frase pronunciata dal ministro. Dunque la storia di Bella è una storia, sembra, a lieto fine. Si tratta per l'appunto di una femmina tipo terrier maltese, felice di essere approdata a terra ma anche spaventata come i suoi padroni. La famiglia Malak, composta da una donna libica di 44 anni, i suoi 5 figli attaccatissimi al cane e suo fratello. I media hanno dato molto spazio a Bella, a partire dal premier maltese, che ha diffuso diversi tweet con la foto del cane e con un testo del tipo «Salvata nel Mediterraneo». Non possiamo però tacere il fatto che a Malta ci si vanti di avere salvato un cane, mentre intanto si stermina ogni uccello migratore passi da quei cieli, nella più totale indifferenza delle istituzioni. Per la redazione di Restiamo Animali, ogni vita ha lo stesso valore. Del cane richiedente asilo Bella, vogliamo raccontarvi una storia, una bella storia, e lo facciamo con la voce della nostra più giovane collaboratrice, Agata. All'interno della rubrica dedicata ai bambini che amano gli animali, speriamo che sia vega. Give me some hope. Maybe when our story's over, we'll go where it's always spring. Nelle favole è il simbolo della malvagità, nell'immaginario collettivo è l'emblema di tutte le paure, nella realtà è un animale sempre più raro ma eternamente perseguitato, il lupo, feroce, pericoloso, aggressivo, così lo descrivono leggende e racconti. Non tutti però. Nel suo libro Lupi dietro gli alberi, Roberta Grazzani rovescia con audacia stereotipi e luoghi comuni, rivendicando la natura benevola, pacifica, perfino timida dell'antico avo del cane domestico, non rinnegando tuttavia il suo spirito selvatico. E lo fa attraverso le parole del nonno di Ania che, ammette lui stesso, sta dalla parte del lupo e che alla fine concederà alla nipotina di portare da mangiare a quei vicini di casa inaspettati e inusuali. Del resto era stata proprio Ania ad accorgersi della loro presenza, là nel bosco, dietro i 4 alberi. Io li ho visti. Li hai visti? Ma che cosa dici, Ania? Quando? Questa notte erano sotto i 4 alberi. A quel punto però anche il nonno rivela il suo primo incontro con il lupo e l'amore per questo animale. Non hai avuto paura quella volta che si sono accorti di te? Sono i lupi ad avere paura dell'uomo, non è il contrario. Se lo sapessimo tutti, saremmo più comprensivi verso questi animali. Perché allora li chiamano bestie feroci? Sono animali selvatici, si sentono padroni del luogo dove vivono e lo sono. L'uomo li chiama feroci perché uccidono per vivere, ma ci sono esseri a 2 gambe più feroci di quelli a 4 zampe. Avrai capito che io sono dalla parte del lupo. E nel suo habitat non c'è tutto il cibo che gli serve? Ci sarebbe se l'uomo non glielo portasse via con la caccia e con altri mezzi. Per questo dico che non è il lupo a essere feroce. Ad Ania poi viene un'idea per aiutare i lupi affamati nel bosco. Se hanno fame sarebbero contenti di trovare qualcosa da mangiare. Perché non gli lasciamo qualcosa fuori sull'aia? Vuoi dare da mangiare ai lupi? Sarebbe finita. Ce li troveremmo fuori dalla porta. No, i lupi devono stare sulla montagna. ma Anya non si arrende e così, una notte, quando vede un lupo dalla finestra della sua camera, lei... «Sono qui, guardami, non aver paura! Aspetta, ti do qualcosa da mangiare!» E il lupo, timidamente, inizia ad avvicinarsi alla sua mano. «Sono io, lupo! Questa è la mia mano! Siamo amici, non aver paura, prendi!» Purtroppo però i nonni scoprono che Anya aveva dato da mangiare ai lupi e... «Stanotte li ho visti davvero, nonna!» «Lo so, e le hai dato da mangiare! Gli hai dato le mele, le polpettine, i pezzi di carne e il pane in raffermo! Non lo dovevi fare! Non possiamo nutrire i lupi, Anya!» «Hanno mangiato dalla mia mano!» «Che cosa hai detto?» «Sono affamati e impauriti!» Una mattina Anya e i nonni si svegliano e si accorgono che tutto era diventato bianco. Aveva nevicato a luglio! «Finché dura questo tempo da lupi, sì, è proprio da lupi, daremo qualcosa da mangiare anche ai lupi. Però non fuori dalla nostra casa, ma più in là, lontano. Gli porteremo del cibo per qualche giorno, sotto i quattro alberi.» Questo succedeva a pagina 77, ma poi cosa accadrà ancora? Lupi dietro agli alberi, di Roberta Grazzani, Fabbri Editori, I Delfini, a partire dagli 8 anni, 137 pagine, 7,50 €. Una bonita mañana, en un pueblo muy delicado, un hombre y una mujer maravillosos. Nella puntata di oggi si parla di caccia, si parla di lupi e io faccio sentire un brano, La caccia ai lupi, di un autore italiano che si chiama Vincenzo Costantino Cinaschi, che è un poeta nato nel 1964 a Milano, ha collaborato con personaggi come Vinicio Capossela, ha fatto un album dove ha musicato le sue poesie, si chiama Smoke. Uno dei brani sicuramente più toccanti, La caccia ai lupi, di cui ne ha fatto anche una versione Eugenio Finardi. Buon ascolto. Sono stremato, ho i tendini a pezzi, ma oggi sono braccato, i tiratori corrono ad appostarsi, dietro gli abeti, fucili a canne doppie. I cacciatori sono nell'ombra, i lupi si rotolano sulla neve, bersagli viventi, la caccia ai lupi, la caccia. I cacciatori non giocano alla pari, con i lupi le mani non tremano, hanno accerchiato la nostra libertà, con le bandierine colpiscono certi di centrare il bersaglio, ma il lupo non può rompere le tradizioni. Noi piccoli lupi, cuccioli, ciechi, abbiamo succhiato la lupa e con il suo latte il divieto di oltrepassare le bandierine. La caccia ai lupi, la caccia. Le nostre zampe e le nostre mascelle sono veloci. E rispondi, tu che sei il capobranco, perché ci avventiamo, braccati contro i fucili? e non cerchiamo di trasgredire il divieto, ma il lupo non può, non deve agire diversamente. Ecco, è arrivata la mia ora. Colui al quale sono destinato sorride e solleva il fucile. La caccia ai lupi, la caccia. Ho rifiutato di obbedire, oltrepassato le bandierine. La sete di vita è più forte. Ho solo sentito dietro di me la grida di stupore degli uomini. E sono stremato, ho i tendini a pezzi, ma oggi non sono come ieri. Sono braccato, sono braccato. E i cacciatori sono rimasti a mani vuote. La caccia ai lupi, la caccia ai predoni grigi, vecchi, ai cuccioli. I bracconieri urlano, i cani latrano fino alla nausea. Sangue sulla neve, macchie rosse delle bandierine. Sangue sulla neve, macchie rosse delle bandierine. Sangue sulla neve, macchie rosse delle bandierine. Io tocco da Volkov, io tocco da. Io tocco da Volkov, io tocco da. Io tocco da Volkov, io tocco da. Io tocco da Volkov, io tocco da. Questa settimana la rubrica di cucina Il Pasto Gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, sarà dedicata al re dei boschi, appunto il lupo. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ecco, attendo, stanno tornando, ho tendini ed agili. Ma quante se ne dice sui lupi? Da in bocca al lupo a lupus in fabula, ma anche il lupo perde il pelo ma non il vizio, oppure chi nasce lupo non muore agnello, e ancora lupo non mangia lupo, o chi fugge il lupo incontra il lupo e la volpe. E ancora, tante ce ne sono. Ma io mi occupo di cucina, mica di proverbi e modi di dire. Allora vi racconterò una ricetta con un ingrediente particolare. Le foglie della bocca di lupo, pianta conosciuta anche come erba limona. Gli ingredienti per 4 persone per i taglierini di zucca al pesto di bocca di lupo sono 300 g di polpa di zucca, un cucchiaio di foglie di bocca di lupo essiccate, olio extravergine di oliva, un cucchiaino di anacardi, un mazzetto di basilico fresco, 2 spicchi di aglio, sale e pepe. L'imboscata dal bosco verrà, sulla neve scappiamo impauriti, e loro sparano senza pietà, e parte il gioco della caccia, la caccia al lupo. Lasciate le foglie essiccate di bocca di lupo immerse in mezzo bicchiere di olio extravergine, affinché si ammorbidiscano prima di essere tritate con gli altri ingredienti. Nel frattempo sbucciate la zucca e tagliatela prima a fette sottili, poi a strisce lunghe, in modo da ottenere una sorta di taglierini. In una padella fate rosolare lo spicchio di aglio in camicia con dell'olio extravergine, aggiungete la zucca e fate cuocere a fuoco vivo per pochi minuti, lasciando i taglierini leggermente croccanti. A questo punto tritate gli anacardi assieme al basilico, a mezzo spicchio di aglio, le foglie di bocca di lupo e tutto l'olio in cui le avevamo lasciate immerse. Tritate bene fino ad ottenere una bella crema. Se necessario, aggiungete dell'acqua ghiacciata, un cucchiaino alla volta. Aggiustate di sale e pepe e con questo pesto condite i taglierini di zucca. Servite con una macinata di pepe nero. Saluta la nostra redazione al completo, composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 454 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.